30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. A 7 mesi dalla dichiarazione di indipendenza del Sud Sudan, Khartoum e Juba, capitali dei due Sudan, sono nuovamente sull'orlo del conflitto. Oggetto del contendere i proventi del petrolio che viene estratto nel sud ma deve attraversare il nord per raggiungere i mercati internazionali. A mediare ora ci prova la Cina, costretta dalle circostanze a svolgere un ruolo politico di mediazione che ha sempre cercato di evitare. Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, di nuovo, crisi, tensione, armi che si accumulano, eserciti che prendono posizione lungo un confine che non è nemmeno del tutto definito, quello tra il Sudan e il Sud Sudan, il paese nato evidentemente all'interno di quello che era un tempo il più grande stato africano dopo 30 anni di guerra civile. Questa sera ne parliamo con Mario Raffaelli, che è presidente di Amref Italia, ma già sottosegretario agli esteri con delega all'Africa, insomma un esperto. Grazie di essere con noi questa sera. Grazie a lei. Allora, Raffaelli, lei segue da anni questo scenario. Certo che la prima considerazione è che appunto a 7 mesi dall'indipendenza c'erano altre speranze e aspettative. Una prima considerazione, come dire, è un inevitabile passaggio di crescita o stiamo davvero andando indietro? Ma è certamente un momento di grande difficoltà, perché emergono di un colpo solo tutti, diciamo, i nodi che forse commettendo un errore i negoziatori, nell'ansia di arrivare alla conclusione, avevano messo da parte, perché diciamo l'elemento scatenante, il più importante, è questo del petrolio, ma accanto a questo ci sono altre questioni aperte, quella della demarcazione delle frontiere e in particolare per quanto riguarda la zona di Abyei, anch'essa diciamo coinvolta nelle questioni petrolifere, c'è la questione della cittadinanza, e cioè del quasi 1 milione di cittadini diciamo provenienti dal sud che vivono al nord e che secondo gli accordi di pace dovevano avere una doppia cittadinanza, mentre adesso c'è la minaccia del nord, anzi hanno già modificato con un emendamento la legge su questo punto, vogliono praticamente metterli con le spalle al muro e obbligarli ad una scelta radicale. C'è il problema del debito complessivo, che sono 38 miliardi di dollari del Sudan diciamo precedente la separazione, e sulla quota che il nord vorrebbe fosse fatta carico ai diciamo fratelli separati del sud. Quindi una serie di questioni che erano state messe da parte nella convinzione che la dinamica positiva dopo la separazione avrebbe potuto appianare e che invece si sono aggrovigliate. E invece sembrano riesplodere. Io direi allora di sentire adesso, e chiedo a Filippo Eregio in regia di farci sentire un contributo audio, prego. Well, they should also stop stealing our oil and they should also stop. Senza sentirlo tutto, dovrebbero anche smetterla di rubare il nostro petrolio. Queste sono parole di 2 giorni fa del ministro dell'informazione di Juba, quindi Sud Sudan, Barnaba Marial Benjamin, che dice sostanzialmente al nord, quindi il governo di Khartoum, ruba sistematicamente il nostro petrolio. Come vi ho detto nel lancio, tra le, come dire, le complicanze di questa vicenda c'è una zona petrolifera a cavallo dei nuovi confini e un percorso che va dritto a nord e poi sul Mar Rosso. Ecco, Raffaelli, quello che francamente non ci si aspettava è che a un certo punto il governo di Juba decidesse di chiudere letteralmente, ha cominciato a farlo in questi giorni, il rubinetto, che come dice anche un detto popolare, insomma, la sensazione di buttare l'acqua al bambino. Sì, perché appunto 2/3 del petrolio prodotto in Sudan appartiene al Sud Sudan, però appunto come lei ricordava, per poterlo poi rendere commerciabile deve passare attraverso il pipeline che è in territorio del nord e usare il porto del nord. L'elemento che ha scatenato questa decisione così drastica è l'accusa appunto di aver sequestrato del petrolio per 800 circa milioni di dollari, e che il governo del nord Holmes ammette di aver sequestrato, ma sostenendo che questo è diciamo per rifarsi dei mancati pagamenti delle tasse dovute, secondo Khartoum, dal sud, appunto per il passaggio sul loro territorio del petrolio. Tenga presente che nel negoziato che si è fatto a gennaio le posizioni su questo punto erano e rimangono estremamente lontane, nel senso che la richiesta di Khartoum è addirittura di 32-36 dollari di tassa per barile, cosa che è circa, secondo gli esperti, 10 volte i prezzi diciamo di mercato, lo standard, e la controproposta da parte di Giuba del Sud è di pagare un dollaro per barile, quindi posizioni estremamente distanti che dimostrano quale sia insomma la difficoltà di affrontare questo negoziato, che riprenderà, questa è l'unica buona notizia, a parte il possibile ruolo della Cina diciamo dietro le quinte per l'influenza che la Cina ha, molto grossa, essendo il maggiore importatore di petrolio, avendo quindi l'interesse che le cose non si blocchino, e riprenderà però il negoziato anche da parte del team dell'Unione Africana presieduto da Thabo Mbeki. Proprio ieri Thabo Mbeki ha dichiarato che non parteciperà alla seduta del Parlamento sudafricano, perché dal 10 al 14 ad Addis Abeba riprenderanno questi negoziati. Come dicevi, poi il punto fondamentale è capire come possa il Sud reggere a questa azione, che crea grandi problemi certamente a Khartoum, ma dipendendo il Sud Sudan per il 98% nel proprio budget dal petrolio, l'esempio che faceva lei mi pare appunto eloquente. Ecco, abbiamo citato la Cina, io l'ho fatto nel lancio, una breve, come dire, promemoria negli anni in cui Khartoum era un posto da pariai, i bombardamenti americani, una serie di distanze prese tra l'Occidente e Khartoum, la Cina invece faceva affari, e questo ha aperto anche tutta una serie di accuse, ma tant'è, nel momento in cui il Sud Sudan è nato, la Cina si è presentata anche insieme alle altre potenze nel sud, nella nuova capitale. L'aspettativa è che oggi la Cina possa svolgere un ruolo davvero diciamo determinante. Lei condivide questa idea oppure è solo un auspicio? No, certamente io penso che questo sia possibile e che la Cina cercherà di farlo. Di questi giorni, tra l'altro, il rilascio da parte di un gruppo di oppositori sudisti, ma che fanno parte ormai del Sudan al nord, che aveva sequestrato 28 cinesi, e anche questo sequestro diciamo fa parte di questa mappa dei rischi e delle tensioni, perché è stato fatto per richiamare l'attenzione internazionale sulla situazione che c'è in due aree del nord, ma abitate da popolazioni prevalentemente del sud, e cioè il Sud Kordofan e il Blue Nile, dove dopo gli accordi, dopo l'indipendenza del Sud Sudan, si sono scatenate delle repressioni, perché sono due regioni per le quali gli accordi di pace prevedevano un'autonomia che non è stata data. Ecco, la Cina ha svolto anche qui diciamo in maniera visibile un ruolo, perché dietro al rilascio degli ostaggi c'è anche un movimento diplomatico che appunto dimostra come nonostante l'atteggiamento tradizionale della Cina sia tenersi fuori dalle vicende interne, questa volta sia obbligata, per gli interessi che ha, a muoversi in maniera costruttiva. Ecco, la Cina in Sudan, una storia che appunto ormai dura da un ventennio e che in qualche modo può rappresentare davvero un punto di svolta per la politica estera. Sappiamo tutti ormai che la Cina è molto presente non solo in Africa, ovunque, ma in Africa sul fronte delle grandi risorse naturali. Il Sudan in qualche modo è un caso davvero emblematico, perché, come vi abbiamo raccontato, insomma, pochi paesi negli ultimi anni hanno coltivato una presenza così solida nel territorio. Ecco, questo per quanto riguarda la nostra prima parte. Tra qualche momento, adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, vorrei parlare invece con Mario Raffaelli di un altro aspetto, che è quello sanitario, perché mentre si muovono tutti questi diciamo eventi diplomatici o quest'area, speriamo non di guerra, ma il rischio è quello, resta un paese afflitto da 30 anni di guerra civile, un paese dove alcune ONG e Mario Raffaele, l'ho detto in apertura, come presidente di Amref ne rappresenta una anche particolare, svolgono un lavoro piuttosto, anzi molto complicato. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donnelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, Sudan, Sud Sudan, i due Sudan divisi, un tema che ci porta lontano, ma non così lontano come a volte pensiamo, perché quando poi parliamo di migrazioni, di instabilità, di crisi regionali, beh, ecco, un conflitto oggi in un mondo moderno rappresenta proprio quell'innesco, quello scatenamento che produce poi tutta una serie di grandi conseguenze. Questa sera con noi Mario Raffaeli, presidente di Amref, sottosegretario agli esteri, anni di esperienza e di lavoro in Africa. Dunque, dicevamo, ci sono grandi interessi, c'è il petrolio e c'è un paese che davvero compie letteralmente i primi passi, mi riferisco al Sud Sudan, in un contesto che era comunque di grande povertà. Ci aiuti a capire sul fronte sanitario, lei che presiede appunto un importante ONG, quali sono le priorità? Ma diciamo che la situazione di tensione, di rischio di guerra di cui abbiamo parlato prima si riflette ovviamente in maniera drammatica anche sulle condizioni umane, e non solo quelle sanitarie, ma quelle anche relative all'alimentazione delle popolazioni. Di questi giorni proprio un allarme lanciato da più parti, dal rappresentante degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza, dal John Holmes, che è rappresentante per le grandi calamità, alla Croce Rossa, perché diciamo in una realtà già di per sé molto difficile. Ricordiamo appunto che nel Sud Sudan si produce praticamente solo la metà del fabbisogno alimentare, tutto il resto viene importato dai paesi vicini, nonostante si tratti di un paese che è il secondo in Africa per potenziale, diciamo, risorse idriche, perché è un paese ricchissimo di acqua, ma per le condizioni dovute ai decenni di guerra civile e al sottosviluppo che ne è seguito, appunto non è in grado di essere nemmeno lontanamente autosufficiente. Bene, in questa situazione già così difficile, le tensioni, gli scontri che ci sono stati e di cui abbiamo parlato prima in zone al nord che confinano col sud, e la tensione che c'è in alcune delle regioni anche del sud stesso, gli stati di Unity, di Jonglei per esempio, sono attraversati da in questa situazione di scarsità di risorse, anche da riemergere di conflitti tribali legati al bestiame, all'uso della terra, dei pozzi, che sopiti durante gli anni in cui il nemico comune rendeva, diciamo, superflue queste divisioni, sono riesplose in maniera acuta. Ed oggi assistiamo a quasi mezzo milione di profughi che sono arrivati appunto dalle regioni del nord, dove ci sono scontri in questo periodo, e che sono andati ad aggravare una situazione già difficile, per cui gli interventi sono mai richiesti a gran voce da tutte le autorità internazionali per supportare sia la condizione alimentare sia quella sanitaria. Insomma, delle basi proprio per la costruzione di uno Stato. A Juba, capitale del Sud Sudan, ancora oggi si arriva con grandi chiatte lungo il Nilo, in un paese che appunto dal Nilo è attraversato interamente, che ha delle risorse petrolifere importanti, che ha una terra, una grande disponibilità di terra da coltivare, ma dove tutto viene importato. Il quadro, Raffaeli, che stiamo dando rischia di essere, come dire, quasi da abbassare, anzi, o sollevare le braccia, arrendersi. Questo è un problema per chi come lei lavora, per chi come voi lavora poi quotidianamente in questo ambito. No, non c'è dubbio, proprio l'altro giorno John Holmes, che citavo prima, ha detto che in Sudan, per tutte queste ragioni che abbiamo ricordato, siamo di fronte a quella che si usa chiamare una tempesta perfetta, cioè quel tipo di disastro al quale è difficile porre riparo. Ovviamente non bisogna rassegnarsi e bisogna intervenire con la doppia ottica dell'emergenza e degli interventi più di sviluppo, e quindi accanto all'appello che ho ricordato prima, che viene fatto per mettere a disposizione almeno 800 milioni di dollari per aiuti e supporto alimentare per l'emergenza, bisogna continuare con attività più strutturate nonostante il momento difficile. Lei sa che AMREF per esempio ha un intervento a Maridi in una regione del Sud Sudan dove formiamo abbiamo già formato più di 300 clinical officer, cioè infermieri particolarmente preparati che sono in grado di diciamo rispondere all'80% delle emergenze sanitarie, e questo è un impegno che noi stiamo portando avanti, che cerchiamo di rafforzare aggiungendovi una scuola per ostetriche, perché evidentemente non bisogna farsi ghettizzare nella risposta di emergenza, bisogna cercare sempre di tenere d'occhio il bisogno appunto di mettere in piedi strutture che siano in grado di autosostenere questo paese. E tra l'altro come AMREF abbiamo pagato un prezzo altissimo, poche settimane fa è stato ucciso il rappresentante di AMREF in Sudan, con il quale avevo lavorato proprio pochi mesi fa nel rafforzare questi progetti, ed è stato ucciso per un fatto diciamo non ancora ben chiaro, ma legato al furto dell'automobile, e quindi a dimostrazione appunto che anche nella stessa capitale la situazione economica difficile poi può creare drammi di questa natura. Certo, grazie Mario Raffaelli, lo so, l'ho visitato l'ospedale, la scuola di Maridi, ve l'ho raccontata ascoltatori di Radio 24, vi ricordo che su www.radio24.it, quindi sul nostro sito, trovate i reportage, i racconti, sicuramente uno di quelle isole di speranza, isole di appunto dove si costruisce anche attraverso la possibilità, la cultura, la condivisione, insomma ci si allontana invece da tutto quello che è il tribalismo, il conflitto, l'ignoranza, chiamiamola pure col suo nome, profonda, che anche innesca tutta una serie di degenerazioni, e che purtroppo paesi come il Sudan, il Sud Sudan, sono particolarmente esposti. Una battuta in conclusione con Mario Raffaelli, ecco, da questo punto di vista, visto che lei ha più di 20 anni di esperienza anche da diplomatico e diciamo sul fronte dei governi, ci sono delle leve per intervenire per evitare che Sud Sudan e Sudan ritornino semplicemente alla guerra? Secondo me sono due leve fondamentali. Una è quella che possono usare i paesi diciamo occidentali, i paesi sviluppati, in particolare per quanto riguarda il debito del Nord Sudan, nel senso di non dare segnali sbagliati come è stato fatto recentemente, dove Inghilterra, Germania, Francia, i maggiori creditori hanno fatto capire di non essere disposti a fare sconti, e questo probabilmente irrigidisce il Sudan e questa sua richiesta. L'altra è quella di incoraggiare gli sforzi africani che in questo caso sono diciamo una felice eccezione rispetto ad altri scenari del Corno d'Africa, perché per varie ragioni tutti i paesi vicini, dall'Uganda al Kenya e l'Etiopia, sono realmente molto interessati a mantenere la stabilità, e noi sappiamo appunto per esperienza che nel creare situazioni di guerra o nel superarle diventa decisiva non solo la situazione interna ma anche e soprattutto l'atteggiamento dei paesi vicini. In questo caso questo è l'unico fattore positivo. Grazie a Mario Raffaelli, lo ricordo, presidente di AMREF Italia, già sottosegretario agli esteri, grazie di essere stato con noi, e ringrazio anche Filippo Aureggi in regia. Come sempre l'appuntamento con 30 minuti in cronaca per sabato prossimo alle 19:30. Buon fine settimana a tutti voi.